Sono diventato pazzo il 28 agosto del 1979, mentre parcheggiavo l'auto. Avevo da poco compiuto 22 anni e mai avrei pensato potesse succedermi una cosa del genere. È successo mentre facevo manovra, mentre guardavo indietro per non colpire l'auto in sosta. È stata una specie di piccola scossa alla base del cranio. È stato un attimo, solo una sensazione, ma niente è più tornato com'era. La gente stereotipizza la pazzia. Pensa ai matti di paese, quelli che vaneggiano, gesticolando al vento, vestiti di stracci, fumando una sigaretta dopo l'altra. Ma la verità non è questa. La verità è molto, molto, molto più complessa. Io lo spiego sempre con l'esempio della valigia. È come prendere una valigia e riporvi le proprie cose con cura, chiuderla bene e scaraventarla giù dalle scale. Anche se poi non la si apre, è chiaro che le cose al suo interno si sono sparpagliate e le più fragili quasi certamente si saranno rotte. Non c'è bisogno di vedere, anche perché non si può vedere. Ecco, per me la pazzia è questa. Non ho bisogno di guardare il dopo barba colare fuori dalle cuciture. Io vivo una vita apparentemente normale, faccio molte più cose di quante se ne possano pensare, eppure mi è impossibile farne altre che possono apparire ovvie. Io semplicemente confondo la realtà con il sogno.